La setta religiosa dei Fratelli Esclusivi è stata fondata nel 1825, crede nella predeterminazione. Sono isolazionisti radicali, agli adepti non è permesso di relazionare in alcun modo con non credenti, cioè con non adepti, e da ciò la proibizione di televisione, radio, giornali, fax e computer. I figli di Dio sono roba degli anni 60, sembra una miscela, tre quarti di sesso hippie, un quarto di cristianesimo a tutti i costi, tanto che le adepte femmine, dette le adescatrici di Cristo, si facevano mettere incinte per allargare le proprie file più alla svelta. I davidiani erano un'ala dissidente degli avventisti del settimo giorno. Scommettevano su nuovi avventi e sull'Apocalisse. Ne avevano prevista una nel 1843, ma in quell'anno non si andò oltre l'invenzione della pistola da tasca per merito di Deringer o quella dei quaternioni per merito del matematico William Hamilton, un po' pochino come l'Apocalisse. Sono stati poi i protagonisti dell'assedio di Waco nel 93, 82 morti. Il Tempio del Popolo ha condotto al suicidio cerimoniale a Jonestown 913 persone nel 1978. Gli Hare Krishna sono databili al 1966, credono alla reincarnazione, al karma, all'astinenza e a quanto faccia bene una doccia fredda alle 4 del mattino. I Testimoni di Geova sono stati fondati nel 1879. Avventisti hanno sempre creduto in una data precisa per la fine del mondo. Avevano provato col 1914, poi ci hanno riprovato col 25, poi hanno preso un po' di fiato, sono andati al 1975, adesso non so, e poi naturalmente credono nel numero chiuso per i posti in paradiso. L'ordine del Tempio Solare era setta dove si riteneva che il leader fosse stato un templare in una sua vita precedente che avrebbe guidato gli adepti in un viaggio salvifico fino al pianeta Sirio. Sono balzati all'attenzione del mondo anche loro per un suicidio collettivo in Svizzera nel 94, un suicidio che costò 53 morti. 7 più o meno scelte a caso fra quelle operanti sul finire del secolo scorso, sette che bene o male tutte quante si sono presentate sul mercato vantando salvezze in grazia di rivelazioni antiche o di argomentazioni tutte nuove, che tuttavia su qualcosa di straordinario, voglio dire, su qualcosa di straordinario pur si basavano, su un miracolo, su una discontinuità brusca nell'andazzo delle cose del mondo, un toccato da Dio latore di una rivelazione altrimenti imperscrutabile, una promessa di alternativa alla miseria dell'esistenza. Entro certi limiti, voglio dire, li si può capire. Se c'è gente che crede davvero perfino in Berlusconi, ci stanno anche loro. Anche gli aderenti alla Chiesa di Scientology credono che ciascun essere umano sia il veicolo di anime immortali. Anime immortali che tuttavia sarebbero piene zeppe di nefaste zavorre, dette engram, queste nefaste zavorre, questi engram possono venire scientificamente misurate tramite una macchinetta di loro invenzione. Nel 95 costava 2600 sterline in Inghilterra. E questi engram poi possono essere anche spunte tramite la dianetica, una sorta di terapia scaturita da un po' di psicanalisi, diciamo, e da un po' di orientaleggiamenti. La Chiesa di Scientology fu fondata nel 1950 in California dallo scrittore di fantascienza Ron Hubbard, padre infelice di due figli più infelici di lui, perché uno gli scappò nel 59 mettendo in giro la voce che il padre non fosse del tutto sano di mente, mentre l'altro si suicidò nel 76. È Ecco, è soltanto il fatto che Hubbard si fosse interessato alla fantascienza che mi fa considerare la sua chiesa come il gradino immediatamente precedente alla nuova religione che dall'America va diffondendosi in Europa in questi giorni. Mi riferisco alla religione dei seguaci dello Jedi Obi-Wan Kenobi. Tratta direttamente da una serie di film, quella iniziata con Guerre Stellari, prodotto dichiaratamente di fantasia, senza equivoci possibili. Si sa chi ha scritto il soggetto, si sa quando l'ha scritto, chi ha scritto la sceneggiatura, chi l'ha diretto, si sa che nessuno di costoro fino ad ora è stato crocifisso o è nato da donna vergine, si sa perfino che nessuno di costoro si è mai sognato di promettere né vita eterna né viaggi salvifici in paesi lontani o in pianeti lontanissimi in dimensioni sconosciute. Obi-Wan Kenobi è semplicemente il nome di uno dei personaggi. Eppure il nuovo credo prevede l'ascesa da pover'uomo a cavaliere dello Jedi a patto di credere nella forza. Forza che viene definita in base ancora alla sceneggiatura del film, come la forza sarebbe il campo di energia creato da tutti gli organismi viventi, l'onnipervasivo collante galattico, una specie di un vinavil letteralmente universale. Che la forza sia con te è dunque diventato l'augurio sincero degli adepti a chi si accinge nelle ambasce dell'esistenza alla difficile impresa di scegliere il bene e recusare il male. Qui voglio dire, delle varie religioni non ci sono né i valori forti né i valori deboli. Non c'è neppure l'ombra di un interesse, in definitiva, né personale né collettivo. È non soltanto peggio di credere in Berlusconi, ma è anche peggio di credere in quell'Alvaro Vitali o in quel Lino Banfi del futuro che interpreteranno la parte di Berlusconi in quel film che non potrà mancare. Fatto è che il vero e il falso, ecco, il vero e il falso come coppia oppositiva fondamentale per interpretare i nostri destini al mondo, il vero e il falso sono in declino. Erano legati a sistemi ideologici basati su valori storicamente cospicui, Dio, patria, famiglia, e non sulle bazzeccole odierne, liberismo, Coca-Cola, telefonino, crostini al salmone, viaggio ai Caraibi. Non è che ci si stia liberando dell'opprimente tradizione filosofica secondo cui il vero e il falso costituirebbero il riscontro, il non riscontro di come sarebbero le cose in realtà, nella realtà vera. Magari. Rinunciando alla protervia del realismo e dal potere dei suoi chierici, saremo liberi di assumerci la responsabilità di un costruire condiviso. Mi sembra invece che l'eclissi del vero e del falso, evidenziata dal diffondersi di religioni a contenuto zero, come quella ricavata addirittura da un serial cinematografico, mi sembra sia il segnale inequivocabile della rassegnazione. In offerta speciale sul mercato ideologico, dimostratosi fasullo, artefatto e truffaldino quanto è stato offerto finora come vero, autentico e onesto, in offerta speciale non rimane che il dichiaratamente fasullo, il dichiaratamente artefatto e il dichiaratamente truffaldino, e l'uno vale l'altro. Yeah.